possibilità di intervenire. Tu puoi. Professor Bocco. Ma io anzitutto voglio dichiarare proprio la mia soddisfazione per questa giornata, che per me è stata particolarmente arricchente. Non so però se abbia capito bene. E allora vorrei almeno un punto chiarirlo con una domanda che rivolgo direttamente al professor Modica, del quale ho apprezzato moltissimo il discorso. Ecco, la domanda era questa. Si è parlato molto di questo del singolo. Lei ha detto in maniera molto esplicita che il singolo è ciò che si deve diventare, il singolo è una meta. Ebbene, assumendo in tutta la radicalità questa prospettiva, lei l'ha detto quando io dicevo, ma me lo stavo proprio proponendo, e lei, e quindi mi ha dato proprio il titolo, benissimo. Allora dico, assumendola seriamente, radicalmente, questa prospettiva, non si dovrebbe rovesciare un po' la impostazione di molti di questi nostri discorsi? Vale a dire, porre all'inizio proprio quel totalmente altro, che è l'unico dal quale il singolo può essere e dunque è il vero principio. In fondo, in questi nostri discorsi, mi sembra, e dico mi sembra proprio perché lo pongo come domanda, che si mantenga ancora un atteggiamento, un'impostazione antropocentrica. Il che sarebbe proprio il limite estremo al quale credo Kierkegaard potrebbe essere ricondotto. A meno che questo non entri proprio nel gioco del paradosso, vale a dire che il paradosso qui giochi anche nel senso che sia necessaria questa impostazione antropocentrica per poter raggiungere. A meno che invece non sia vero il contrario, cioè che il paradosso non sia introdotto anche nell'assunzione di questa ovvietà che quando io parto, parto da me, proprio per essere pensato kierkegaardianamente. E qui credo che sarebbe interessante, ma lo accenno soltanto, ripensare un po' meglio la fede, proprio riferendosi al concetto di fede di Lutero, il quale addirittura oppone nel rapporto tra Dio e noi, la fede all'amore, cioè l'amore e l'amore di Dio per noi, la fede è questa nostra risposta all'amore di Dio. E questo pare che forse potrebbe dare alcune indicazioni abbastanza interessanti proprio per comprendere in maniera più corretta la prospettiva. Ma voglio concludere proprio dicendo che se noi poniamo in primo piano, davvero l'origine, Dio e il suo amore, che è quello dal quale è sostenuto tutto il cammino, ebbene allora tutto quello che Spera ha detto indubbiamente acquista una sua precisa valenza. Lo ha detto in maniera appassionata, in maniera assolutamente così cordiale e direi attivamente cordiale. Qualcuno come me, per esempio, potrebbe persino un po' dissentire da certe sue connotazioni. Ci siamo, ma questi sono fatti nostri, poi li risolviamo quando ci troviamo, no? Ma no. Però allora il problema è questo: se Dio è davvero il principio, Dio come giunge a noi? Non soltanto come noi lo riconosciamo, ma come giunge a noi. Ecco, il problema della mediazione allora diventa importante. La mediazione potrebbe essere quella della scrittura, isolata, piazzata lì a mezz'aria, non si sa dove, con quale funzione. Il problema è quello della mediazione effettivamente esercitata da quel, non lo chiamerei singolo, qui bisogna dire nome e cognome perché è singolo ancora categoria, di quel Gesù di Nazareth, figlio di Maria e di Giuseppe. Che funzione ha? Che questo mi pare che sia un problema che a questo punto possa essere posto. O forse no. Grazie. Grazie, professore. Padre Tiet. Vorrei fare soltanto due domande, l'una a Modica e l'altra a Spera. A Modica, parlato molto bene dall'altro, dell'alterità, un tema che è poco trattato in Kierkegaard. Vorrei chiedergli perché non ha parlato dell'altro per eccellenza che fu Regina, la fidanzata, o della relazione al padre, e se l'avesse fatto, dove avrebbe inserito il passaggio. E adesso a Spera vorrei chiedere molto semplicemente se Kierkegaard, o lui anche, sperando Kierkegaard, coinvolge la Chiesa Cattolica in questa critica così aspra della Chiesa di Stato e del protestantesimo installato, ufficiale, della Dinamarca del secolo scorso. Grazie. Grazie, padre. Professor Penzo. No, devi venire di qua. No, volevo, intanto mi scuso con Spera e poi con te, cioè due piccole postili. La prima è, cioè, è quasi si avvicina a Padre Trieste, no? La prima è, tu parlavi di vari modi di alterità, eccetera, però non hai segnato i passaggi, cioè estetico, etico, cristiano, perché allora l'alterità assume un diverso significato. Se è estetico sarà l'abbandonarsi delle cose, eccetera, nell'etico con la legge, e invece nel religioso superare l'uno e l'altro. Per cui anche il distacco acquista una certa valenza secondo se si tiene presente questi passaggi. Secondo punto, volevo chiedere, siccome tu parlavi molto bene, una cosa che mi interessa per il mio amico Stirner, no? Cioè la comunità. Non è società, è la comunità, c'è cioè un insieme di Gemeinschaft, un insieme di individui che stanno assieme e praticamente non formano la società, però hanno una stessa base di intesa. Ecco, questo mi è piaciuto, questo punto qua, volevo sapere fino a che punto Kierkegaard sottolinea questa Gemeinschaft, che allora nella metà del 800 era una cosa anche contro Marx, eccetera, era un dibattito molto attuale. Grazie. Grazie, professor Penzo. Allora, se non c'è qualche altro, benissimo. Uno alla volta. Mi era già posto il problema leggendo il libro dell'introduzione a Kierkegaard tuo, perché mi sembra che continuamente metti in rilievo vari paradossi all'interno stesso dell'uomo Kierkegaard, e diciamo che anche questa è stata una lettura molto frequente. Mi pare che si possa vedere quasi a tre livelli questo discorso, o meglio, preferisco farlo così in modo che sia poi più chiara la domanda. Tommasoni. Da un lato si potrebbe prendere l'aspetto della persona. Sappiamo che molti libri hanno messo in rilievo il contrasto tra la sua critica alla Chiesa danese, così accomodata all'interno del sistema sociale, e la sua stessa vita agiata. Kierkegaard, tutto sommato, sappiamo, viveva bene. E quindi in un certo senso mi ha colpito a questo punto il fatto che per il giudizio universale non aveva preso il brano di Matteo, quello nel quale si parla del fatto di non aver dato da mangiare e da bere, ma invece aveva preso un altro brano, guai a voi scrivi e farisei. E quindi questo è già un primo livello che mi lascia perplesso rispetto a un certo paradosso sottolineato anche dalla critica, diciamo forse anche un po' dall'esterno. Il secondo livello di lettura è quello che tu hai condotto maggiormente, ed è la critica sociale, diciamo, mossa, diciamo, attraverso dimostrare l'incoerenza della Chiesa rispetto ai suoi principi. A questo punto il problema che si pone, che hai toccato, è se ci sia ancora uno spazio per la Chiesa in generale, cioè per una comunità. E qui mi pongo il terzo livello, che è poi quello che riguarda l'essere filosofo e i suoi principi. E a questo punto volevo porre proprio a Modica il problema. Il prossimo dà ancora spazio alla comunità o no? O in verità questo prossimo è inteso ancora in modo singolare, e quindi secondo il rapporto di lui e Regina, lui e il padre, lui è un individuo, lui è il discepolo, E quindi a questo punto direi si pone il problema anche di una nostra lettura oggi del paradosso. Grazie. Sì, dopo il professore c'era prima. Lei doveva venire? Rizzacasa. Dunque, cerco di dire rapidamente solo qualche considerazione. Mi pare che questi giorni si sono dette molte cose su Kierkegaard e soprattutto io credo che si sono delineate due linee. Una, quella complessa, sempre sulle sabbie mobili, di continuare il discorso di Kierkegaard. L'altro è quello di concettualizzare Kierkegaard rischiando indubbiamente di filosofare su di lui, ma di fare un discorso che forse non è nello spirito della lezione kierkegaardiana. Ora, io mi domandavo una cosa, parto soprattutto dalle considerazioni ieri di Giorgio Penza e dalle considerazioni di Anna Gianna Tiempo, con le quali sono perfettamente d'accordo. E volevo dire proprio questo. Mi pare che la via di Kierkegaard, quella via per cui lui si definisce scrittore, e è stato frainteso dicendo scrittore di cose religiose in modo quasi da impoverire il suo messaggio, è una difficile via, ma è una via alla quale dobbiamo rimanere fedeli se vogliamo continuare il messaggio di Kierkegaard. Perché le alternative sono quelle della filosofia o della teologia. In fondo il suo discorso non voleva essere né filosofico né teologico, anche se doveva fare i conti sia con la filosofia che con la teologia. E vado rapidamente a quello che stavo per dire. Mi pare che alcune tematiche, ecco, partiamo dal problema di Lessing, perché quello è il problema filosofico non risolto, che poi impone il salto, che poi impone di tener conto dello scandalo, che poi impone il paradosso, senza concettualizzare però il paradosso, perché il paradosso non è concettualizzabile, quello di Kierkegaard. Allora, su questa via, il recupero che propone Kierkegaard, per cui, ecco, lo mettiamo sulla linea di Nietzsche, sia pure nella loro grande diversità, è il recupero di una dimensione ineludibilmente tragica della condizione umana del singolo. Questa dimensione ineludibilmente tragica del singolo è quella della fede, che è evocata appunto dalla figura di Abramo, e quella del rapporto con l'altro, del difficile rapporto con l'altro, che è evocata appunto dai rapporti polemici con il padre, dal rapporto con Regina, l'interrogativo rapporto con Regina, dal rapporto appunto polemico e interrogativo col vescovo Martensen. E allora a questo punto, il problema di fondo è quello di un singolo che si apre il paradosso ad un rapporto con l'altro, che è il rapporto con Dio. Ma questo è un rapporto che Kierkegaard, appunto, nella comunicazione diretta e nell'edificante, propone ovviamente come un rapporto che coinvolge tutta l'esistenza e che non è traducibile in nessuna concettualizzazione, perché altrimenti, al di là di Socrate, ricadiamo con Hegel. E il grande rischio è questo. Cioè, volevo dire solo questo, stiamo attenti a non far dire a Kierkegaard proprio quello che Kierkegaard ha voluto rifiutare. Grazie. Professore. Le chiedo se è possibile fare una domanda che coinvolga anche i relatori precedenti. Se sono disponibili a rispondere, va bene, non c'è nessun problema. Tanto più che sarà abbastanza sciocca. C'era una cosa, mi chiamo Bettiolo. In verità non sono affatto né un esperto di Kierkegaard né di altre cose, ma sono mosso da alcune curiosità. Io mi occupo di padri della Chiesa tendenzialmente, di cose un poco vecchie. C'era un problema che mi tornava ripetutamente ascoltando i diversi interventi e che si pone, mi pare, a due livelli, del resto credo non disgiungibili. Uno veniva fuori anche dalla penultima relazione, quando si parlava insistentemente dell'uomo naturale, di questa sorta di odio, per così dire, vero? Per il mondo, il contrasto, la collisione, eccetera, l'abbandono, questo tendenziale acosmismo, se mi consentite, ad un certo livello, che mi pone un problema di interpretazione relativa al mondo o allo statuto, se mi consente, un'espressione della creatura. Però si ricollega, a mio modo di vedere, ed è una domanda di chiarimento, ad un problema che è emerso sia questo pomeriggio che questa mattina, a mio modo di vedere, nell'articolazione dei diversi livelli del paradosso. È capitato che se ne sia parlato e che però tendenzialmente mi pare un poco ciascuno abbia privilegiato un aspetto. Dico adesso, tanto per non fare oscurità eccessive, mi pare che il professor Melchiorri questa mattina abbia privilegiato un certo livello del paradosso o un certo aspetto della formulazione del paradosso, dicendo che poi certo c'era anche un altro livello, un'altra formulazione, e che ad esempio la professoressa Giannatiempo abbia spostato la sua attenzione su quell'altro livello. Certamente nessuno dei due ignorava l'altro aspetto. Nessuno dei due intendeva contestare la validità o la fecondità di un approccio diverso alternativo, però hanno in qualche modo eluso il problema che quell'altro livello comunque in qualche modo poneva, a mio modo di vedere. Vi chiedo ancora pazienza in questo senso. Mi pare che in qualche modo, allora, ad un primo livello il problema sia quello dello statuto della filosofia, dopo la decisione di fede. Almeno a me pare che sia un pochino questo talora, va bene? Che cosa significa pensare dopo che ci si è decisi e si è creduto? Mi pare che tutti dicevano che era utile ancora il pensiero, con certe condizioni o altro, ma vorrei capire in che modo, ecco, e quale sia la sua articolazione, perché mi sembrerebbe decisiva in relazione a Kierkegaard, ecco. Perché mi pare che si operi talora, o sia stato detto che si operi nelle pagine di Kierkegaard in relazione a questo problema, dei contatti, dei discernimenti. C'è ad esempio un rapporto, mi sembra che sia stato detto, a questo livello con una certa filosofia schellinghiana. Mi pare che si indichino alcuni limiti interni alla filosofia negativa così come è stata formulata da Schelling. Mi pare che si evidenzino a diverso livello i rischi o i problemi posti dalle diverse filosofie che si sono succedute e fondamentalmente, se mi consentite, nell'ambito dei due grandi contesti entro cui si è pensato, prima di Cristo e dopo Cristo, il che mi sembra che sia in qualche modo decisivo in relazione a Kierkegaard, perché c'è un riferimento al pensiero greco che sembra essere testimone di una certa fase o stagione o anche integrità, se mi consentite, del pensiero umano, e poi c'è un riferimento alle filosofie che si sviluppano nell'ambito moderno più propriamente, che sono esposte, mi sembra, a ambiguità o a mescolanze, a fornicazioni, se volete che usi un'espressione della scrittura, molto maggiori. Ecco, è tutto questo che volevo chiedere, cioè che mi aiutaste a comprendere, ecco, in relazione alle forme, anche perché vi dico, che c'erano alcuni temi che mi facevano problema, in relazione soprattutto alla relazione del professor Melchiorri, e le chiederei se è possibile di aiutarmi a risolverli, perché mi pare che a due livelli egli abbia indicato una soluzione a un problema, un aspetto che mi attendevo che sviluppasse in un certo modo e poi invece no. ma forse, e che credo che abbia relazione forte col discernimento della naturalità o della natura e col discernimento del problema del raccordo tra i diversi paradossi, se mi consentite. Ed è quello dove, mi pare che parlando della critica dell'argomento ontologico alto, ha detto tra l'altro della sua rilevanza che concludo all'esistenza di ciò che peraltro mi muove, o partendo dall'esistenza di ciò che mi muove. Che quando incomincio la dimostrazione ho già accolto, se non vado errato, ecco. Mi sembrava che questo poi fosse stato un poco lasciato. Che cosa comportava questa irruzione di altro o dell'altro, in quanto normativa o disciplinatrice, anche in relazione a quello che più tardi ha posto come problema del relativismo di un certo pensiero soggettivo. Perché allora non sono più io da me stesso che sono libero, per così dire, di fantasticare, ma se sono mosso ho un raccordo con altro che mi obbliga in una qualche misura e che mi sembrerebbe, e allora a quali livelli, con quale profondità, in relazione a quale altro, perché non è sempre necessariamente. Ecco, chiedevo in qualche modo il chiarimento di queste connessioni, perché mi sembrava talora di non vedere una contraddizione insanabile tra i diversi livelli di trascendenza. Se già il passaggio all'esistenza è obbedienza, l'obbedienza della fede, non comprendo perché questa obbedienza che schiude i viventi dovrebbe pormi imbarazzo nei confronti di una certa cristologia dall'alto, o essere inospitale nei confronti di quella, così come non riuscivo a comprendere esattamente il significato della cristologia dal basso che prospettava. Perché se una formula di cristologia ariana, nell'ambito della quale il rapporto alla divinità è un rapporto di esteriorità, da creatura a creatore, pur sempre, per quanto più alto possa essere, o se volete quello che è stato detto nell'ambito delle teologie cristiane antiche, il rapporto del giudaismo al Dio, allora sono figlio nei confronti del Padre, ma non trascendendo quell'orizzonte. Mi sembra che a questo livello non ci sia un guadagno decisivo. Scusate se mi sono perso, ma erano alcuni problemi che mi avevano... Grazie. Incuriosito. Lei? Una domanda per il professor Modica. Ho apprezzato molto la distinzione che ha fatto dei vari livelli di alterità. E la domanda è questa. Come mai Kierkegaard non parla mai di sua madre? In una produzione così ampia non c'è mai un riferimento alla madre. È una domanda per il professore Spera. La grazia. È una mediazione o è il paradosso più grande? Bene, grazie. Mi pare che non ci sia nessun'altra richiesta. Allora, la risposta ai relatori. Cominciamo da l'ordine cronologico. Rispettiamo l'ordine. Sì. Io ringrazio per i vostri interventi, che sono stati tutti qualitativamente ricchi e devo dire assai impegnativi sotto il profilo della provocazione intellettuale. Siccome tutti siamo qui forse più per apprendere che per insegnare qualcosa a qualcuno, allora io sicuramente ho appreso molto di più dalle domande che mi avete rivolto piuttosto che dalle cose che avevo studiato, e non lo dico con retorica, ve lo posso assicurare, sono le cose che mi sono state chieste sono quelle sulle quali io, andando a casa, comincerò a riflettere, sulle quali comincerò il mio approfondimento. Allora, fatta questa premessa, per carità non mi tiro indietro, cercherò di dirvi che cosa, molto a caldo, mi hanno suscitato queste questioni. Posso partire dal basso, cioè dalle ultime questioni che sono state poste. Che rapporto c'è, mi è stato chiesto, tra prossimo e comunità? La comunità, io ho appuntato mentre sentivo le domande, è lo stare insieme dei singoli, che diventano tali in quanto capaci di autoabnegazione, l'abbiamo detto. Da questo punto di vista, la comunità è, secondo me, per Kierkegaard, la negazione dell'ecclesia fondata sulla cristianità stabilita e l'affermazione di una coinonia, come giustamente suggeriva il nostro amico professore, fondata sulla libertà tragica della scommessa. Ecco, la comunità è la sfida che Kierkegaard lancia nei confronti della cristianità stabilita. E da questo punto di vista, all'amico Penso, ho buon gioco nel dire che, ahimè, non ha niente a che dividere col Verein, perché il Verein, come tu mi insegni, si fonda sulla utilizzabilità reciproca dei costituenti, il Verein stesso. Un'apparente similitudine potrebbe esserci nel senso che coloro che compongono il Verein lo compongono in piena libertà, tant'è vero, come tu mi insegni, in qualsiasi momento il Verein può essere distrutto così come è stato costruito. E la comunità in fondo ha lo stesso spessore che connota la libertà di chi appunto decide di consacrare la propria vita all'autoabnegazione e quindi in qualsiasi momento con la stessa facilità può decidere di seguire Satana. Se non che, mentre il Verein ha uno spessore utilitaristico e si fonda su di sé, nel senso che non rimanda ad altro, anzi, se rimandasse ad altro, per Stirner questa sarebbe la negazione stessa del concetto stesso, ammesso che sia un concetto di unico, per Kierkegaard invece la comunità rimanda propriamente alla scommessa e dunque al rapporto teandrico. Quindi da questo punto di vista credo che sia una parentela impropria. Mi hai chiesto anche che fine hanno fatto i tre stadi, più o meno questo mi hai chiesto, all'interno dell'alterità. Io sono rimasto un po' così disorientato all'inizio. Credo che i tre stadi siano tutti e tre presenti dentro questa articolazione. Vabbè, però lo devo dire in che senso sono presenti. Sono presenti in questo senso. La dimensione estetica è presente nel problema della costituzione della personalità come sintesi dell'universale e del particolare e dunque è presente come polo negativo rispetto al quale la personalità si costruisce e diventa appunto singolarità. Certo. La dimensione etica è presente nel senso che, anzi, l'atto etico per eccellenza è propriamente quello della costituzione della personalità. La dimensione religiosa è presente perché tu non lo vuoi più sentire questo, ma hai fatto la domanda e non lo vuoi sentire. La dimensione religiosa è presente proprio perché nel momento in cui la personalità si costituisce come tale, lì comincia il problema della gestione di questa personalità e per cui è proprio allora che il problema del singolo diventa il problema del diventare singolo, non dell'essere tale. Quindi si tratta di nuovo di una scommessa che implica un itinerario, un esercizio, come direbbe Kierkegaard, una pratica, una scuola di cristianesimo che costa appunto il martirio, o perlomeno può arrivare a costare persino il martirio. Penso di avere risposto grosso modo alle domande. La signorina mi chiedeva della madre. Io, ahimè, la madre di Kierkegaard, nei testi di Kierkegaard, non l'ho mai incontrata. Però qui ci sono altri studiosi che possono eventualmente correggere il tiro. Sì, giustissimo, professor Tiglietti, come l'ho dimenticato? Ah, era messo qui il discorso, no? Regina e padre. Sì, lo so. All'ultimo la cosa si tappò, poi era il figlio della serva, perché sì, era stata vinciuta, era domestica del padre e mi sembra che questa colpa, parentesi del padre, ha pensato molto. Infatti, giustissimo, giustissimo. La madre era una persona, infatti, sono degli esatti della buona persona sempre. Sì. Ma infatti c'è questo piccolo dramma che sì, di essere, ha dovuto sposarla, insomma, vedo. Certo. E adesso la vedo normale, però certo, negli ambienti borghesi di quell'epoca diventava un pochino scandaloso. Ecco. Allora il professor Tillet, giustamente illuminandomi, mi dà il destro per pensare che l'assenza della madre è la sua presenza invece maggiore, nel senso che parla proprio perché non c'è stata. E quindi è un'altra spina nella carne che si aggiunge alla psicologia kierkegoriana. No, invece io ho dimenticato, ma qui Freud probabilmente la direbbe lunga, ho dimenticato a rispondere al professor Tillet, che mi chiedeva che fine hanno fatto Regina e il padre. Sì, è vero, lei me l'ha chiesto per primo e quindi lo shock è stato maggiore. In effetti io non ho riflettuto su questo, ma perché? Probabilmente perché si tratta di due figure singole. Mentre io mi sono preoccupato prima di tutto di guardare il problema sotto forme categoriali. Allora, posto questo, le chiedo, e questo mi interessa molto, lei ritiene che in questa economia di discorso la figura singola possa contribuire alla costruzione teoretica del problema dell'alterità? Oppure è un rischio che non deve essere corso? Perché è come se noi volessimo fare della biografia kierkegoriana sostanza stessa del suo filosofare, cosa che peraltro è inevitabile, attenzione, lo so bene, ma non so quanto questo, dico, non porti a contaminare, per così dire, dal punto di vista concettuale, l'esito delle riflessioni fatte. Ma questa è proprio una questione che mi piacerebbe. Di lei questa importanza della vita singola, e questo essere in senso esistenziale, esistentivo, e che legare senza regina fatica, senza il padre di tutti. Va bene, grazie. Secondo me, grazie, d'accordo. Ho anche la tendenza, quando io volevo dire il contributo tedesco che abbiamo avuto, di cancellare il contributo di sistema. Questo è valido da vedere come Kierkegaard legge davanti a Hegel, davanti a Schelling, davanti a Nietzsche. Però un altro punto, io non sono molto filosofo, ma mi interesso molto per le persone, come si sta, come si pensa, e pensiamo con tutta la nostra vita, con il credo. Certo, grazie. Grazie. Lui chiede il corpo. Lutero. Senti, allora penso, prima lasciamo finire il professore, dopo facciamo le domande libere, perché altrimenti complichiamo le cose. Allora. Sì, le varie domande si possono raccogliere anche per risparmiare tempo. Ringrazio naturalmente delle sollecitazioni. Il problema è appunto della mediazione della Chiesa, luogo di salvezza, prolungamento di grazia di Cristo, grazia. Quindi la Chiesa, la grazia non è mediazione e non è paradosso, mediatore è Cristo e la Chiesa soltanto come Cristo presente, prolungamento del Cristo, e non è nemmeno paradosso, a meno che si voglia rendere tutto paradossale. Se invece la grazia è la presenza salvifica di Cristo, allora è un dono anzitutto. Ora, è chiaro che il problema della denuncia e relativa riforma in questo caso riguarda in modo particolare, risponde a lei professor Tillet, in questo caso riguarda particolarmente Kierkegaard, ma naturalmente parlare in questo caso di Kierkegaard non esclude, tant'è vero che io ho fatto sia pure rapidamente e disordinatamente alcuni riferimenti, oltre che ovviamente alla fonte scritturistica, anche ad altri autori. Ne aggiungo due a maggiore chiarezza. Il primo è del Consilium Delectorum Cardinalium et aliorum prelatorum de emendanda ecclesia, proprio mentre maturava la riforma. Cioè, tra le cause peggiori della corruzione della Chiesa, la Chiesa di Cristo, parliamo della Chiesa di Cristo, che poi può essere quella dello Stato danese o cattolico o evangelico, ma credo che tutti noi, se cristiani e credenti, importa la Chiesa di Cristo. Cioè, come alcuni pontefici tuoi predecessori, dicevano a Paolo III, si ragunassero di quei maestri secondo i loro desideri, che sogliono stropicciare gli orecchi, come dice l'Apostolo, non per impararne ciò che far dovessero, ma per trovare ragione nello studio e nella scaltrezza di quelli da far lecito ciò che piaceva. Naturalmente la storia serve anche a vedere che cosa si ripete continuamente, attesa la costante della natura umana, che per esempio ha piacere di sentirsi solleticare gli orecchi. Una seconda testimonianza a noi vicinissima, nella Chiesa Cattolica, nel cuore della Chiesa Cattolica, le esperienze pastorali di Don Milani messe all'indice. Questo lavoro, frontespizio, è dedicato ai missionari cinesi del Vicariato Apostolico di Etruria, quelli che noi oggi chiamiamo Toscana, dove si trovava la sua comunità, perché contemplando i ruderi del nostro campanile e domandandosi il perché della pesante mano di Dio su di noi, abbiano dalla stessa nostra confessione esauriente risposta. Ora c'è una seconda lettera dall'oltretomba riservata e segretissima ai missionari cinesi dei defunti pastori, parroci, dobbiamo dire, dell'Etruria. Cari e venerati fratelli, voi certo non vi saprete capacitare come prima di cadere noi non abbiamo messo la scura alla radice dell'ingiustizia sociale. È stato l'amore dell'ordine che ci ha accecato, abbiamo solo dormito, troppe strane cause con quelle del Cristo abbiamo mescolato. Essere uccisi dai poveri non è un glorioso martirio. E le testimonianze, abbiamo citato prima quelle di Congar, tanto radicale quanto sapiente ed equilibrato, e per finire, perché è stata giustamente o doverosamente citata, ricordata la Sacra Scrittura, certo, Matteo 25, il giudizio, è Matteo 23 che cita Kierkegaard, ma anche e soprattutto a suffragio di quello che dice Kierkegaard e a suffragio di quello che dicono tutti, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Questa sarebbe la tesi di Fabbro che non condividerei, assolutamente. Danimarca. Non ne parla, scusi, non ne parla. Io credo che lui continui a essere influenzato, forse mocciamente, dalla lettura di chi? Di Fabbro, che io non condividerei. A me importa, credo io, fare la critica della critica, no? Cioè, Kierkegaard ha criticato Lutero e la Chiesa danese, noi critichiamo Kierkegaard. A noi importa, credo, in qualche modo, capire il senso della critica kierkegaardiana, che comunque non intendeva minimamente esaltare altre forme di cristianesimo. Potrebbe farci piacere, ma non è il caso di Kierkegaard. Allora, se vuol venire il professor Melchiorre, un attimo. Sì, dopo, perché prima c'era... Andiamo con ordine. Ah, il mio amico mi ha posto parecchie domande. Cercherò di essere così, solo indicativo nelle risposte. Magari, se mi permettete, anche inizierei con una insolente analogia. Nella seconda lettera ai Corinti Paolo si chiede: se venisse un non credente mentre state celebrando, no? che cosa penserebbe. Io mi chiedo, se venisse un non credente in mezzo a noi, direbbe: ma dove sta la filosofia? E credo che si debba un po' recuperare questa dimensione, e mi pare che l'indicazione venga proprio dalle domande poste. Ma io, naturalmente ci sono diversi livelli nel discorso di Kierkegaard, e sarebbe veramente una stortura assoluta voler ridurre monoliticamente il pensiero di Kierkegaard ad una sola dimensione. Quindi teniamole tutte insieme, non pretendiamo di omologarle del tutto. Ecco, comunque a me pare importante, non casuale, che il discorso sul paradosso inizi nelle briciole proprio con quella definizione: il paradosso è la passione della ragione. E qui quello che diceva anche il professor Ringleben mi pareva importante. E qui c'è il contrappunto all'intelletto. Dunque, è il paradosso della ragione, cioè di una dimensione più alta dell'intelletto, quella dimensione in forza della quale, alla fine, io sono abitato dalla mia origine, sono abitato da colui che mi ha posto. Ricordiamo la definizione della malattia mortale: lo spirito è il rapporto che si rapporta a se stesso, e rapportandosi a se stesso si rapporta a colui che l'ha posto. Dunque il problema è questo, che noi non possiamo, non se siamo spirito, non possiamo non vivere se non pensando, se non raccogliendoci nella presenza o di fronte a colui che ci ha posto. Ora, pur nella immensa abissale distanza, nella alterità di Dio, tuttavia qui c'è già un nesso sul quale Kierkegaard continua a lavorare. Kierkegaard continua a dire che lui è stato alla scuola dei greci, quindi sa bene che cosa vuol dire possedere anche l'universale, l'essenziale, e quando ultimamente deve, per congiungere con una formula il rapporto col fondamento, dice quella formula splendida: ubique et nusquam. E quindi c'è una partecipazione, c'è una che anima, no, la vita del credente, e tuttavia nusquam, da nessuna parte, è assolutamente altro, mentre è il totalmente presente. Allora, su questa reciproca, su questo simoro, su questo essere presente ed essere assente dell'origine, e Kierkegaard si pone il problema, ecco, potremmo dire, che cosa pensare dopo Kierkegaard. Ed è il problema del vi, non è più neanche il problema schellingiano del was, no, c'è l'origine, su questo non si discute. Questa è, diciamo, la condizione di possibilità di ogni vita spirituale. Per Schelling il problema era poi determinarlo, il was. Kierkegaard non pone assolutamente questo problema, piuttosto dice il problema è il vi, come io mi rapporto. Ecco, allora che cosa dire dopo questa formula? A me pare che, se volessimo tradurre in termini, ecco, ogni passato serve al futuro e al presente, se volessimo tradurre nei termini delle nostre esigenze, potremmo dire che proprio qui Kierkegaard apre la frontiera dell'ermeneutica. In che senso? Nel senso che proprio quella comunione e alterità col divino permette la possibilità di trovare in qualche modo dei modelli, ma non sono propriamente dei modelli, sono delle possibilità, sono delle figure, Climacus, Anticlimacus, Vittorino, Johannes de Silenzio, il Don Giovanni, insomma, tutte, Abramo, per non dire, Giobbe, insomma, ecco, tutte queste figure che non comunicano mai un imperativo a chi legge, ma però presentano una possibilità e quindi presentano un come, un possibile modo di rapportarsi rispetto al quale ognuno poi possa dire forse anch'io. Poi c'è il caso di Cristo e quindi diciamo che Kierkegaard non ha fatto altro nella vita che esercitare un'ermeneutica dei possibili, cioè un'ermeneutica delle possibili congiunzioni o delle possibili disgiunzioni. No, Don Giovanni. Poi c'è il Cristo, che è l'unico che invece non è un possibile, ma è un reale. È un modello che si comunica direttamente. Per gli altri è la comunicazione indiretta. Cristo è la comunicazione diretta. Però anche qui c'è una dualità, se vogliamo. Perché è il Dio fatto presente e rivelato, ma è ad un tempo il Dio nascosto nella figura finita del Cristo. No? È un Dio che in qualche modo, dice Kierkegaard, esercita un umorismo nei riguardi dell'uomo, che si nasconde in qualche modo. Allora anche qui direi che, ecco, i discorsi edificanti aprono il metodo di un'incessante ermeneutica per penetrare nel nascondimento di questa presenza storica del divino. Dice Kierkegaard, negli stadi della vita il cristiano sta a metà o è sintesi fra la commedia e la tragedia, cioè deve incessantemente esercitare questa distanza rispetto, potremmo dire, al nessun nome e il nome definitivo e tuttavia l'impegno totale fino ai limiti del tragico. E poi c'è appunto il paradosso appunto del Cristo. Ecco, direi che questa è l'altra dimensione, la dimensione della religione B, rispetto alla quale effettivamente c'è quella conclusione di Kierkegaard che qui si crede contro ragione. A me è sembrato di vedere che qui giochino sul piano ontologico certe categorie di tipo aristotelico, come dicevo oggi insieme col professor Ringleben, cioè il Dio immobile di interpretato come il Dio immobile di Aristotele, e dall'altra parte una cristologia dall'alto, cioè un Cristo, non solo il Cristo post-pasquale, ma un Cristo, un Dio che dall'Eterno si incarna nella storia. Non dico che l'antitodo di questo debba essere una cristologia dal basso nel senso ariano, tutt'altro. Dico che probabilmente una intelligenza del mistero cristologico, del mistero trinitario, non nei termini insomma di un Giove che assume le sembianze della pastorella, ma nei termini insomma di una umanità prodotta dall'umano, Gesù, come diceva Boff, figlio di Maria e di Giuseppe, figlio della sua terra, che tuttavia, proprio perché ha raggiunto il massimo del proprio annullamento, proprio perché ha distrutto ogni pretesa che l'uomo si ponga su di sé, proprio per questo è stato posto alla destra del Padre ed è diventato identico al Verbo Eterno. Credo che una prospettiva del genere non toglierebbe certo il mistero di Dio, neanche quello dell'incarnazione, ma in qualche modo renderebbe molto più vicina la religiosità B alla religiosità A di Kierkegaard. Ma insomma, anche questo è un dopo Kierkegaard. Grazie, professor Melchiorre. Così concludiamo. Stamattina il mio caro amico Giorgio Penzo, ho fatto una domanda, ma secondo me non ha spiegato che cosa vuol esattamente sapere. Ma ho una idea, forse è giusto. Io alla fine della mia conferenza soltanto volevo dire che riguarda a Kierkegaard e Lutero esiste la stessa struttura del pensiero teologico, la stessa struttura. Lutero anche parla tesi sul paradoxa teologica. Io non so che anche esisti un rapporto storico, non lo so, ma forse Nein, das habe ich jetzt nicht verstanden. Denn das weiß ich nicht. Non lo so. Non lo so. Risposta. Era una risposta? Sì, risposta. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Una risposta. Grazie ai relatori, grazie a coloro che sono venuti qui ad ascoltare. Buonasera a grazie tutti. Grazie a lei. A domani. Per la presidenza.